Giovani Talenti. Giovani Talenti di Sergio Nava. Il perché iniziare un'attività imprenditoriale in questo momento nel nostro territorio? Io mi sono occupata di sviluppo economico locale in paesi in via di sviluppo negli ultimi 10 anni. Ho trattato il patrimonio culturale di altri paesi e ho cercato di rivitalizzarlo. Come mi sono sempre ripromessa, sto cercando di spendere le mie competenze nel mio paese di nascita. E quindi andiamo contro tendenza e siamo tornati. Buongiorno e bentrovati all'appuntamento settimanale con Giovani Talenti, voci dalla nuova emigrazione. Ultima cartolina oggi dal progetto Brainback Umbria, piano regionale per favorire il rientro dei giovani talenti imprenditoriali ora all'estero. Avete appena ascoltato le riflessioni di Alessandra Quartesan, tornata in regione insieme ad altri 3 soci per avviare un progetto legato al turismo di qualità e ai prodotti e servizi di eccellenza del territorio. La frase della settimana è copyright di Rashid Kadiri Abdelmoula, il giovane venditore di accendini marocchino salito agli onori delle cronache per essersi laureato in ingegneria al Politecnico di Torino. Rashid ha rifiutato, pensate, un contratto al Grande Fratello. Poi, in un editoriale sulla stampa, ha spiegato: ai sogni bisogna obbedire. Il mio è fare l'ingegnere con la cravatta. Come mi vedo tra 10 anni? Beh, spero di avere svoltato, non in uno studio televisivo, ma in uno di progettisti. Davvero una straordinaria lezione di vita in un paese che ai suoi figli ha insegnato l'esame. Esatto contrario, meglio star della TV che laureato. Se siamo in crisi, un motivo pure ci sarà. Oggi menzione speciale per il nostro ascoltatore Filippo. Nella pagina Facebook Fuga dei Talenti ha lasciato un sintetico quanto melancolico messaggio. Non c'è niente di peggio che ascoltare giovani talenti quando hai appena lasciato la tua ragazza all'aeroporto pronta a partire per un dottorato in Scozia. In bocca al lupo a tutti e due, Filippo. Ogni volta che purtroppo mi trovo a contattare italiani per lavoro non mi viene mai offerto la retribuzione, mentre qui mi mantengo una vita e riesco ad essere un adulto a 25 anni. Francesca Giuliani, 25 anni, è una giornalista al lavoro a New York. Della sua storia parleremo tra pochi minuti. Ora spazio al notiziario. In apertura i nuovi dati in esclusiva radiofonica sugli under 40 che hanno deciso di rientrare nella penisola nel 2012 usufruendo della legge contro esodo, legge che offre incentivi fiscali ai giovani di ritorno dall'estero. Sono stati 2087 nel 2012, in calo dai 3838 del 2011. Quel che è più significativo è avvenuto il sorpasso degli uomini sulle donne, 1335 contro 752. Alessia Mosca, deputata PD, tra i promotori di contro esodo. Era abbastanza fisiologico che ci sarebbe stato un calo sia per l'aggravarsi della situazione economica del nostro paese, sia perché ovviamente il primo anno c'è stata possibilità di avere maggiore informazione rispetto a questa iniziativa. Ovviamente la prima delle due motivazioni è quella più pesante, però per noi è molto importante il fatto che comunque siamo arrivati a 2000 persone che hanno usufruito della nostra legge. Noi ci eravamo dati un target di 1000 persone l'anno, questo significa che nel giro di un triennio possiamo raggiungere un livello sui 6.000-7.000 beneficiari della nostra legge. Si è molto parlato in questi ultimi mesi di un'estensione dal 2015 fino al 2018 dei benefici della legge contro esodo. Siete riusciti a raggiungere l'obiettivo? No, ancora no. Noi avevamo presentato un emendamento alla legge di stabilità per fare questa proroga, ma non è stato accettato. Ieri proprio è stato presentato in Consiglio dei Ministri il pacchetto che prevede una serie di norme relative a destinazione Italia. Questo è lo strumento giusto su quale noi intendiamo intervenire per inserire questa proroga di 3 anni alla legge contro esodo. Boom dell'emigrazione italiana in Gran Bretagna. Secondo i dati diffusi dall'Ufficio Nazionale di Statistica inglese, nel 2013 il flusso di connazionali oltre maniche ha fatto segnare un più 52%, 39.400 persone in tutto. In forte crescita gli arrivi dai paesi in crisi dell'Eurozona. Focus su Berlino. Ora, secondo l'ufficio statistico della capitale tedesca, sono oltre 13.000 i connazionali tra i 15 e i 45 anni residenti in città, su un totale di italiani pari a quasi 20.000. Superiamo francesi, greci e spagnoli. In poco più di un ventennio la popolazione italiana a Berlino è cresciuta di oltre 12.000 unità, quasi la metà di loro è emigrata tra il 2009 e il 2012. Nella penisola ora, per migliorare le proprie opportunità lavorative, i giovani lombardi sono disposti a trasferirsi all'estero, il 46%, quasi 4 punti sopra la media nazionale, lo rileva il rapporto giovani dell'Istituto Toniolo. Pure una quota rilevante di chi un lavoro già ce l'ha si dichiara disposta all'espatrio. Molto sentito l'aspetto del reddito, tra i giovani lombardi occupati solo il 19% si dichiara pienamente soddisfatto. Aumenta il numero di studenti universitari che preferiscono proseguire il percorso accademico all'estero. A fotografare il fenomeno, l'Istituto di Ricerche sulla Popolazione e le Politiche Sociali del CNR. Nel 2011 studiavano all'estero 62.580 universitari, quasi 23.000 in più rispetto al 2008, afferma il rapporto. Regno Unito la meta preferita con oltre 11.000 presenze. Conferma un'indagine contribuenti.it, gli studenti italiani sognano di iscriversi presso college e università straniere. La ricerca ha evidenziato come un giovane su due vorrebbe studiare in Spagna, Gran Bretagna, Germania o Svizzera, due su tre sognano gli Stati Uniti. Talenti che emigrano, talenti che non arrivano. L'Italia, secondo l'Expat Explorer della Banca d'Affari Internazionale HSBC, è 23esima in classifica su 24 tra i paesi che offrono le migliori condizioni agli espatriati. E a proposito di scarsa attrattività sul fronte accademico, non supera il 10% la media di dottorandi stranieri nelle università italiane. È in corso a Roma Guardo al futuro, stati generali delle politiche giovanili in Italia sul tema della partecipazione e occupazione dei giovani. Sempre oggi è in programma a Houston la nona conferenza dei ricercatori italiani nel mondo ed è invece fissata per giovedì e venerdì a NOLA MeTalents 2013, evento convegno sulla mobilità dei giovani e rientro dei talenti. Info su meTalents.it. La storia di questa settimana di Giovani Talenti ci porta ancora una volta a varcare l'Oceano Atlantico, New York come città delle opportunità, non solo nei settori della finanza, della ricerca o del management, ma anche del giornalismo. Scopriamo come con la protagonista della puntata di oggi. Nome: Francesca. Cognome: Giuliani. Età: 25 anni. Città di origine: Roma. Studi: Scienze della comunicazione e scienze politiche. Anno in cui hai lasciato l'Italia: Nel 2010. Per andare dove? A New York. Perché? Per uno stage. Quale lavoro svolge attualmente? Real Time News Editor. Dove? A Data Miner, una società qui a New York. Tornerai? Sì, a Natale. A song that will take us back to the city where everything started for me. Start spreading the news. Preferisco la speranza alla certezza di non trovare lavoro che l'Italia mi offre in questo momento. Era il settembre 2012 quando, Francesca, ci scrivesti questa email. A distanza di più di un anno, un lavoro negli Stati Uniti ce l'hai, ma il tuo giudizio verso il bel paese non sembra mutato. Vivere a casa in questo momento storico significherebbe vivere un'adolescenza eterna e io non ho tempo da perdere. Mi piacerebbe però davvero che le cose cambiassero. Francesca, allora, qual è la tua personale interpretazione dell'ormai stracitata frase "l'Italia non è un paese per giovani"? Ogni volta che purtroppo mi trovo a contattare italiani per lavoro non mi viene mai offerta la retribuzione, mentre qui mi mantengo una vita e, insomma, riesco ad essere un adulto a 25 anni. A 25. E non è una cosa strana. Chiamo subito in causa l'ospite della puntata, il volto di Al Jazeera, Barbara Serra, una degli expats più noti della nostra folta comunità italiana a Londra. Barbara, gli italiani non sono pigri, è il titolo del tuo ultimo libro pubblicato da Garzanti. Sulla base della storia di Francesca, che ascolteremo tra poco, e sulla base di quanto racconti nel libro, ci aiuti a rispondere a una domanda cruciale: perché all'estero i nostri connazionali sembrano tirare fuori il meglio, primeggiando e facendo a pezzi gli stereotipi? Perché oltre confine siamo i numeri uno e come sistema paese invece no? Inizio col dirti una cosa che può sorprenderti, non voglio essere troppo negativa, però non voglio neanche renderla una situazione troppo rosea, cioè non è che all'estero, Londra, New York, città come queste siano il paradiso, e io purtroppo so di molti esempi di italiani che vengono in questi contesti, contesti anglosassoni, contesti incredibilmente competitivi, e non ci riescono. Perciò, diciamo, non è roseo per tutti, perché funziona, perché la gente che ci sa fare, che veramente ha voglia di fare in un paese o come l'America sicuramente, che è molto meritocratico, un po' anche come Londra e il resto del nord Europa, allora ci riescono, perché in Italia sappiamo ancora la meritocrazia non esiste come dovrebbe. Con te torniamo tra poco, Barbara. Ora la storia di Francesca, che inizia con una laurea triennale in scienze della comunicazione alla LUISS, seguita da una specialistica in scienze politiche. Perché questa scelta? Volevo fare la giornalista da sempre, volevo fare la giornalista sapendo come comunicare e cosa comunicare. E quale voto dai tu all'università italiana nel complesso? Se rinascessi, te ne partiresti direttamente alla volta di New York? Guarda, la LUISS devo dire è un caso particolare, mi sono trovata molto bene. Mia sorella invece sta finendo alla Sapienza, un'esperienza totalmente diversa, quindi insomma c'è università e università. Per quanto riguarda iniziare a New York, sì, probabilmente mi avrebbe dato qualche opportunità in più studiare qui, però insomma è andata bene come è andata. Per diverso tempo prima di trasferirmi qui ho lavorato nel settore del giornalismo anche in Italia, ma non ho mai trovato opportunità concrete di sviluppo professionale, complice sia la condizione critica del mercato del lavoro sia la mia giovane età, dici. Francesca, condividi l'idea che la professione di giornalista sia una delle più inaccessibili al momento per un giovane di talento nella penisola? Abbastanza. abbastanza, sì, assolutamente. Quali sono i blocchi, gli ostacoli principali, a tuo parere? Gli ostacoli principali sono sia l'assetto, insomma, della professione, l'accesso alla professione che è regolato appunto dall'ordine, dalla necessità di avere una licenza, un patentino per poter essere effettivamente un giornalista, e effettivamente anche il fatto di avere il patentino è un ostacolo. Sarò ancora più diretto. In Italia ormai solo i figli di giornalisti fanno i giornalisti. Ci sono anche i figli di giornalisti che fanno i giornalisti, non è quello necessariamente il problema più grande. Anche qui sicuramente ci sono figli di giornalisti che fanno i giornalisti, ma se sono bravi non è un problema. E poi se ne vanno tutti, da qua se ne vanno tutti, non te ne accorgi ma da qua se ne vanno tutti. Sta di fatto che un bel giorno prendi un aereo, eri ancora l'ultimo anno di università, e ti trasferisci a New York. Cosa ti porta nella Grande Mela? Mi porta nella Grande Mela uno stage alla RAI, a RAI Corporation, che insomma mi intrigava molto perché avevo già lavorato alla RAI per RAI Education a Roma. Speravo di riuscire a rimanere all'estero, vedere, insomma, di mettere un primo piede lì e vedere come funzionava e di farlo magari in una realtà italiana ma con aspirazioni estere. Una volta arrivata qui mi sono resa conto che avevo studiato abbastanza, che andare a scuola per altri due anni sarebbe stato superfluo. Con la tua ottica americana, Francesca, hanno senso le costose scuole di giornalismo italiane, ormai il quasi unico canale di accesso alla professione? La scuola di giornalismo secondo me non è una cattiva idea in se stessa, però se la scuola di giornalismo diventa uno stop in più, un parcheggio ulteriore per cui un imbuto, 27... esatto, a 27 anni ancora non sei in grado di metterti in proprio, di avere una carriera, sei ancora uno stagista quando esci, è un problema. E più in generale, ha senso un ordine dei giornalisti come lo intendiamo noi? L'Italia è un'eccezione in questo senso, ci sa, è sì. L'Italia e credo un altro paio di paesi africani ad avere un ordine dei giornalisti, quindi diciamo la cosa la dice tutta questa. Per sé non depone benissimo. Qua esiste la Freelancers Union, per esempio, esistono dei corpi, diciamo, delle unioni che difendono come fossero sindacati, diciamo. Come il sindacato italiano, sì, anche in Italia c'è un sindacato dei giornalisti. Francesca, qual è la differenza in termini di opportunità tra un mercato del lavoro giornalistico stagnante, sempre più soffocante, per non dire inesistente, quale quello italiano, è un mercato dinamico, come quello americano? Una cosa che secondo me ti dà il senso di questa differenza sono i siti internet dei giornali italiani e americani. Quando tu vai su un sito italiano non trovi mai la sezione lavora con noi, mentre quando vai qui in America la ricerca di lavoro avviene su internet. Rapidamente la tua storia, i 3 mesi di stage alla RAI Corporation iniziano e finiscono senza darti ulteriori prospettive, conosci Matthew che un anno fa diventa tuo marito, così decidi di concludere rapidamente l'università in Italia e tornare nel 2011 a New York. Approdi alla New York University come ricercatrice alla facoltà di giornalismo e inizi collaborazioni per siti italiani e americani che ti procurano il visto. Quanto è facile da outsider entrare nel mercato giornalistico americano? È difficilissimo. Purtroppo lavorare in America con le carte in regola è veramente complicato. Decidi comunque di continuare con caparbietà la tua esperienza negli Stati Uniti approfondendo le tue collaborazioni da freelancer tra siti online e redazioni fisiche. Un anno fa approdi a Broadcaster. Dopo la chiusura della startup passi 4 mesi fa a un'altra azienda, Dataminer. Quanto è semplice trovare lavoro in ambito editoriale oltreoceano? Basta il curriculum? Curriculum basta se hai le carte in regola. Se no, effettivamente il curriculum è un buon inizio. Io qui non conoscevo nessuno, sono arrivata da sola. Dataminer è una società che è nata nel 2009, che fa delle cose molto strane, in partnership con Twitter. Tramite algoritmi riusciamo a determinare cosa sia rilevante e cosa sia, insomma, semplicemente chiacchiericcio. Questa tecnologia si sta espandendo ad altri settori, tra cui quelli dell'intelligence governativa e delle notizie, ed è qui che entro in campo io, con questo progetto di mettere a punto un prodotto per i clienti nei media. Domanda di rito, come vedi l'Italia dall'estero, cosa c'è che non va? È una proposta concreta da cui ripartire. L'Italia io la sto capendo sempre meno, a dirti la verità. Io proporrei di dare più spazio ai giovani, nel senso che i giovani non sono manchevoli, non sono stupidi, sono pronti a partire. Sarebbe il caso di dargli un po' di spazio. Giovani Talenti si ferma per un attimo, ci sono strade in diretta, noi torniamo subito dopo. Giovani Talenti. Bentornati a Giovani Talenti, il programma di Radio 24 che vi racconta le storie dei giovani italiani emigrati per affermarsi professionalmente. In questa puntata parliamo della vicenda di Francesca Giuliani, reporter 25enne al lavoro a New York con Dataminer, dove si occupa dell'analisi delle notizie in tempo reale. Francesca approda nella Grande Mela già durante gli studi universitari per uno stage alla RAI, poi decide di fare degli Stati Uniti la sua terra di approdo, non avendo trovato nella penisola concrete opportunità professionali. Lavora in università e avvia collaborazioni con testate italiane e americane, riuscendo a rendersi indipendente come freelance. Un anno fa approda alla startup Broadcaster da agosto a Datamire degli Stati Uniti, apprezza la natura meritocratica. Non importa chi sei, quanti anni hai o da dove vieni, se sei capace puoi fare, rileva Francesca, paragonando impietosamente la realtà americana a quella italiana. Ci raggiunge nuovamente in linea Barbara Serra, giornalista di Al Jazeera, autrice del libro Gli italiani non sono pigri. Buon pomeriggio. Buon pomeriggio. Barbara, Francesca a un certo punto della sua lettera scrive: il giornalismo non può essere pigro, riferendosi all'arretratezza tecnologico-culturale del nostro modo di fare giornalismo. Allora, colgo la palla al balzo per chiederti, riformulando il titolo del tuo libro in forma un po' autocritica, possiamo dire che gli italiani non sono pigri, ma la categoria dei giornalisti italiani sì, innamorati di un passato che non tornerà, incapace di aprirsi al mondo e anche un po' mettersi in discussione? Guarda, io non credo che sia pigrizia, io credo che qualsiasi giornalista in questo momento che pensi che nei prossimi 10 anni, 15 la carta non scomparirà, o che pensi che ancora tra 15 anni o 10 ci sedremo tutti davanti alla TV alle 20 per vedere il TG delle 20, non è una questione di pigrizia, quella è solo ingenuità, e i giornalisti non sono per natura ingenui, perciò non è quello. Credo che tutti sappiamo che sta cambiando, ma come tante cose in Italia è il sistema che è difficile da cambiare, e anche forse la competizione non è spietata come altrove. Quanto hai ritrovato di te stessa e della tua storia nella storia di Francesca, ma soprattutto nelle riflessioni che lei fa sul nostro mondo professionale? Avendo studiato nel sistema anglosassone, a parte ovviamente una conoscenza dell'inglese che è utile e l'ho come quasi come madrelingua, è come se avessi avuto il libretto di istruzioni per capire come funziona quel sistema, perché io credo che il pericolo che c'è in Italia ora è che noi tutti parliamo dei problemi ovvi che sappiamo ci sono nel nostro paese, ma vediamo all'estero come un po' un paradiso. Quando Francesca dice qui conta solo il curriculum e non le conoscenze, assolutamente vero. La tua storia in breve, Barbara, nata nel 74 a Milano da padre sardo e madre siciliana, studi in Danimarca e in Inghilterra alla prestigiosa London School of Economics prima di approdare alla BBC. Nel 2003 passi a Sky News, poi Channel 5, stabilisci il record di essere la prima straniera alla conduzione di un TG inglese fino all'approdo ad Al Jazeera. Qual è stato il segreto di questa ascesa professionale, ma soprattutto perché, come scrivi nel libro, se fossi cresciuta in Italia so che la mia carriera non sarebbe andata così? La lingua. Io parlavo l'inglese, come sentirai il mio italiano un po' stentato, perciò diciamo l'inglese è un pochino meglio. Perciò avevo una padronanza della lingua che mi permetteva di lavorare da giornalista, sai, non è che devi andare lì con un inglese approssimativo, è come l'italiano, devi parlarlo perfettamente. E poi credo che sono arrivata, avevo la passione che ho sempre avuto, soprattutto per le notizie internazionali, e un po' di fortuna, ma anche tanto lavoro, e si parla di conoscenze. Sono qui da 20 anni, ho comunque un network di conoscenze, ma non raccomandazioni. La solita grande differenza tra la raccomandazione all'italiana e le referenze o conoscenze all'anglosassone. Dobbiamo tenerle ben distinte e spiegarle ogni volta, è importante. Un capitolo davvero straordinario del tuo libro è dedicato alla meritocrazia. Allora lo dico perché sei una delle poche che ha avuto il coraggio di spiegare cos'è davvero, coi suoi pregi, ma anche con il suo lato più spietato. In sintesi, Barbara, cos'è questa benedetta meritocrazia? La meritocrazia in Italia è intesa come antidoto al nepotismo, questo sicuramente lo è e questo rende una cosa positiva, ma è completamente inutile parlare di meritocrazia se non si parla anche di competizione e ambizione. Le tre vanno insieme e io questi discorsi in Italia non li sento. Ti spiego perché è importante, soprattutto quando vieni a Londra, e perché tanti ragazzi che vengono a Londra non ci riescono. La meritocrazia non premia i bravi, la meritocrazia non premia chi ha studiato tanto, la meritocrazia in un certo senso non premia chi se lo merita. La meritocrazia premia i migliori e agli altri in un certo senso vanno gli scarti. Se tu vieni a Londra e fai una domanda di lavoro e per quello stesso lavoro, soprattutto di questi tempi a Londra, altre 1000 persone stanno facendo domanda, non importa se tu hai fatto tutte le cose che avresti dovuto fare, se c'è solo una persona che è meglio di te, il lavoro va a loro. Ed è per questo, è tutta un'altra mentalità. Io questo livello di competizione, io non sto dicendo che a Londra c'è lavoro, ma non sto dicendo che questa è la maniera migliore per vivere, ma se si parla di meritocrazia si deve anche parlare di questa competizione più o meno spietata che va mano in mano con la meritocrazia. Grazie a Barbara Serra, giornalista di Al Jazeera, e domanda di rito per Francesca Giuliani: quale consiglio daresti a un giovane coetaneo che magari in questo momento si trova in difficoltà e che sta pensando tra le varie vie d'uscita a un espatrio? Non pensare inizialmente all'America, perché è veramente respingente, specialmente in questo momento storico. Preparati, studia l'inglese, anzi vieni qua sapendolo molto bene perché non sopravvivrai, impara quali sono gli ostacoli burocratici perché ce ne sono moltissimi ovunque, in particolare in America, portati qualche soldo dietro perché non sarà semplice iniziare. E ora spazio alla nostra rubrica Job Abroad sulle migliori opportunità di lavoro all'estero. Oggi vi segnaliamo Un Corporate Communications Manager per Swift a Bruxelles, scadenza per i CV domani, info a swift.com. Un Senior Electrical Hardware Engineer per Amec Leicester, Gran Bretagna, scadenza per i CV 10 gennaio, info ad amec.com. E infine un assistente professore in immunodermatologia all'Università di Zurigo, scadenza per i CV 6 gennaio, info a jobs.uzh.ch. E siamo giunti ad Expats, lo spazio di giovani talenti dedicato al mondo della nuova emigrazione professionale. Oggi ospitiamo un altro giornalista che ha fatto e continua a fare sulla carta stampata un percorso simile al nostro, racconta storie di giovani espatriati. A differenza di noi però, e con notevole costanza, ha deciso di continuare a seguire nel tempo le storie di questi professionisti all'estero. Il seguito lo ha raccolto in un libro, Enzo Riboni, autore di Addio per sempre. Il libro nasce come raccolta delle storie che ho pubblicato dal novembre 2008 a oggi nella rubrica Giovani all'estero. Il libro ha seguito queste storie anche nella loro evoluzione, perché io poi ho ricontattato i singoli giovani per vedere che cosa è successo. Nella maggioranza dei casi i giovani sono rimasti dove erano, se consideriamo l'estero come una totalità, no? Magari si sono spostati da un paese all'altro. Tieni conto che su 81 storie che compaiono in questo libro, solamente 7 sono i rimpatriati, quindi meno del 9%. Pochissimo. Guardiamo a chi è rimasto fuori, perché l'ha fatto? Saltano fuori 4 motivazioni principali. Allora, prima è il fatto ovvio che ci sono più occasioni di lavoro, retribuzioni mediamente più alte e anche con possibilità di stabilizzazione più alta che in Italia, una maggior meritocrazia che fa promuovere i migliori e quindi di conseguenza maggiore possibilità di carriera. E poi ci sono quei 7 che sono meno del 10% ma sono tornati. Perché l'hanno fatto e soprattutto è andata bene? L'hanno fatto con 2 tipologie. Da una parte chi è andato a lavorare all'estero per conto di un'azienda, di una multinazionale italiana, che poi sono rientrati perché l'azienda ha deciso di farli rimpatriare. In altri casi invece perché si sono esaurite delle esperienze, dei tentativi iniziali e sono tornati in Italia un po' non entusiasti, insomma, perché poi non è che hanno trovato occasioni ottime in Italia. Tu che idea ti sei fatto di questo fenomeno della nuova emigrazione professionale? Di per sé il fatto che ci siano dei giovani che si muovano verso l'estero non è un fatto negativo. Il fatto negativo è proprio quello che accennavamo prima, la percentuale dei rientri e soprattutto la percentuale dei rientri con occasioni opportune offerte in Italia. Quindi esportiamo, mobilizziamo verso l'estero dei talenti, però poi questi non rientrano e d'altro canto non siamo in grado poi di attrarre anche i talenti stranieri verso l'Italia solo con percentuali basse. Per maggiori informazioni, Addio per sempre di Enzo Riboni, Italic Digital Edition, se lo potete trovare sulle principali piattaforme di ebooks. Un motivo per restare o tornare. Sono 1227 le startup innovative in Italia, 113 le startup high-tech finanziate, 97 gli incubatori e acceleratori, 32 gli investitori istituzionali, 40 i parchi scientifici e tecnologici, 65 gli spazi di coworking, 33 le competizioni dedicate alle startup. Nel corso del 2012 sono stati investiti complessivamente 112 milioni di euro in startup high-tech, per il 2013 si stimano investimenti per altri 110 milioni di euro. Lo rivela il rapporto di Italian Startup Ecosystem Who's Who. E per interagire con noi potete collegarvi online su Facebook, nel gruppo Fuga dei Talenti o nella pagina Fuga dei Talenti. Potrete rispondere alle discussioni del mese che rilanciamo anche sul gruppo La Fuga dei Talenti all'interno del portale professionale LinkedIn. Potete pure contribuire al blog aperto all'indirizzo radio24.ilsole24ore.com/blog/nava e aperta l'iniziativa hashtag collegata a Fuga dei Talenti. La stringa del mese è Università Giovane. Dibattetene in 140 caratteri. Siamo allo spazio Internective. Ogni ultimo sabato del mese leggiamo le vostre lettere in onda. La discussione di dicembre è: il ministro Carrozza a Giovani Talenti ha chiesto ai professori universitari over 70 di andare in pensione. Siete d'accordo? E nel caso, per combattere le baronie, perché non abbassare il limite a 65 anni? Per condividere idee, proposte e denunce nel nostro forum scriveteci a giovanitalenti@radio24.it. Vi ricordiamo infine che siamo sempre alla ricerca di nuove storie da raccontare. Se siete under 40 ed espatriati potete candidarvi a giovanitalenti@radio24.it. E finisce qui questa puntata di Giovani Talenti. Aspetto dunque i vostri contributi via email. Vi ricordo infine che questo programma può essere riascoltato sul sito www.radio24.it. Ci sentiamo sabato prossimo alle 13.30, sempre su Radio 24, per la prima di 3 puntate speciali natalizie. Un saluto e un augurio di buona settimana da Sergio Nava.